Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Bugün İtabella'ya 24 Aralık 1912 doğumlu, İtalya'da doğan, swing türünün İtalya'ya getiren şarkıcı, baterist ve prodüktör sahne adıyla Natalina Otto'nun şarkıları konuk olacak. İş hayatına terzi olarak başlasa da çok genç yaşta müzik dersleri de alıyor ve Cenova'daki müzik gruplarıyla baterist olarak çalışıyor. Sadece 16 yaşındayken Conte di Savoia Transatlantik'te gemi bateristi olarak işe başlıyor. Sonra burada artık Natalina Otto sahne adını alıyor. Şimdi Natalina Otto'dan iki parçayla başlayalım. Lungo il viale, arkasından da Ave Mamma la stessa età, şimdi İtabella'da. La studentessa l'accompagna lo studentino che birichino d'amor le parlerà. Oh, oh, sei fresca e vellutata, hey, hey, dirà scandalizzata quando già l'avrà baciata lungo il viale. Che sospironi e che lezioni, ma senza il professore. Passa gli esami un batticuore muto e labbro farà, e non saprai al professore cosa dire, si sa che seccatura, allora che brutta figura, che bella bocciatura lungo il viale, che lacrimoni da quegli occhioni azzurri come il mare. L'ambocciata, ma lo studente dal cuore ardente la sa riconsolare. Oh, oh, con zero in geografia, ehi, ehi, con tre in filosofia tu sarai per sempre sua nel diploma di mogliettina o studentina c'è la felicità. Ascolta, ascolta studentessa, se la storia non sai, un'altra volta lungo il viale sola tu te ne andrai. E se l'amore ti tenta, tu pensa al dolore di quella bocciatura. Tu sarai per sempre sua nel diploma di mogliettina o studentina. C'è la felicità, c'è la felicità, c'è la felicità. La più brava in geografia, tra i libri della mia malinconia, conserva ancora il fiore che m'hai dato, quel giorno che mi avevano bocciato. Avevamo la stessa età, questo nessuno lo sa, or non capisco perché hai 10 anni meno di me. Vedo, vedo passar quella lune, fiumi, città e meraviglie, però solo per me il tempo passò. Adesso taci, dammi 10 baci, uno per anno, se no racconterò. Avevamo la stessa età, solo il mio cuore lo sa, oro 10 anni di più e tu profumi di gioventù. Avevamo la stessa età, la stessa età. Noi sognavamo ed eravamo uguali sui banchi delle classi ginnasiali. Ricordi, risolvevo il tuo problema in cambio d'una pasta con la crema. Adesso taci, dammi 10 baci, uno per anno se no racconterò. Avevamo la stessa età, solo il mio cuore lo sa, oro 10 anni di più e tu profumi di gioventù. Avevamo la stessa età, la stessa età. Lungo il viale ve avevamo la stessa età dinledik. 1935 yılında New York'ta Gene Krupa ile tanışıyor ve bu vesileyle bir İtalo-Amerikan radyo istasyonunda bir kontrat yapıyor. Bu esnada yine İtalyan asıllı bir Amerikalı caz keman virtüözü olan Joe Venuti ile arkadaşlığı başlıyor ve Venuti ona Amerika'ya taşınması için teklifte bulunuyor. Ama Natalino 18 Kasım 1935'te yeniden Atlantik'i 38. kez geçtikten sonra artık eve dönmeye karar veriyor ve Genova'ya dönüyor. Şimdi iki otto parçasıyla devam edeceğiz. Önce Tutto Calcolato, arkasından da In Cerca di Te, Solo Meno Vo. Şimdi radyonuzda. Papà se n'è andato, lascia passare un minuto, scendi poi giù di filato, tutto già calcolato. Vieni da me sul portone, non ti currar del lampione, lo spegnerò con un sasso, Teresi, Teresi, scenda basso. Al mio fischio scendi giù, tutto è calcolato, 3 minuti a tu per tu, io ti bacio, tu mi baci, poi ritorni su. Quando papà se n'è andato, lascia passare un minuto, scendi poi giù di filato, tutto già calcolato. quante cose mi combina l'amor, per vederti faccio il calcolatore, ma se il piano fallirà chi lo sa, tuo papà me le dà, se mi baci, se mi stringi così, non mi fido più di mettere sì, ma tu forse hai calcolato, lo so che così poi ti sposerò. Quando papà se n'è andato, lascia passare un minuto, scendi poi giù di filato, tutto già calcolato. Ho calcolato tutto per amore. Città. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Ogni viso guardo non sei tu, ogni voce ascolto non sei tu. Dove sei perduto amore, ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticar, il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuta ed ora so che sei l'amore. Il vero amor, il grande amor, solo bene vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho, che più non ho. Tutto calcolato vi incerco di te radyonuzdaydı. Amerika'dan deniz aşırı müziği dinleme ve çalma deneyiminin yanı sıra yeni müzik türleri olan caz ve swing ve bir kolunun altında da plaklar, nota kağıtları bir de mikrofon getiriyor. İtalya döndüğünde keman sanatçısı Franco Grassini'nin dans orkestrasına katılıyor, Roma'ya taşınıyor. Arkasından Armando Frania'nın orkestrasıyla sahne alıyor ve Milano'ya gidiyor. Bu dönemde saksafon sanatçısı Pierotti ile de çalışıyor. 1937'de ise çok önemli bir hayatına giriyor, Gorni Kremer. O yılın yazında Viareggio'da başlayan bu uzun işbirliği caz müziği repertuarını dinleyiciye sunmasına vesile oluyor. Natalina Otto ve Gorni Kremer'in birlikte icra ettikleri iki parçayla devam ediyoruz. Önce Brimbo Birambo, arkasından da Non Non Non Non No, şimdi Itabella'da. Thank you. birambo, la notte di te, birimbo, birambo vuol dir per me, io voglio bene a te. Quel canto nel sambo, la fine lo di, la rosa sul campo stanotte fiorì, l'ho colta tremando, pungendomi un po', e adesso te la do. Profumo d'un fior, con la musica di un cuor, per te canterò. Una bella pilastro che la tua bocca bacerò, birimbo, birimbo, birambo, birambo, birimbo, birambo vuol dir per me, io voglio bene a te. Se mi pensi ancora, ti chiedo solo un po' d'amor, ma tu mi dici sempre no, no, no, no, no, no, no, no. Un bacio puoi donarmi tu, ti chiedo un bacio e nulla più, ma tu mi dici sempre no, no, no. Non so più dormire, non so più mangiar, mi farai morire, mi fai disperare. Chiedo di non far così, ti prego di rispondersi, ma tu rispondi sempre no, no, no, no, no, no, no, no. Şimdi İtabella'daydı. Mussolini ve faşizm döneminde olduğumuzu unutmadan Otto'nun yenilikçi bir repertuar önerisinin dönemin Amerikan müziğinden güçlü bir şekilde ilham almasından dolayı İtalyan gerçekliğiyle karşılaşmak zorunda kalıyor. Çünkü o dönem her türlü yabancı etkileşim İtalya'da yasak. Bazı şarkıların başlıklarını değiştirmek zorunda kalıyor. St. Louis Blues kelimesi kelimesiye çevrilerek La Tristezza di San Luigi olarak adlandırılıyor. Mr. Paganini ise Maestro Paganini'ye dönüşüyor. Devlet Radyo Kurumu onun parçalarını barbar bir müzik diye yayınlamaktan vazgeçiyor. Radyodan dışlanan bu Liguryalı şarkıcı İtalya'nın karanlık yıllarında birçok ses kaydı ve tiyatro gösterisine inadına devam ediyor. Ve her zaman Maestro Gorni Kremer'in orkestrasıyla çok sıkı bir işbirliği içinde oluyor. Kısa sürede kayıtları aracılığıyla izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. O dönemin nadir, hatta belki de tek bir örneği olarak radyo olmadan başarıya ulaşıyor. Ve Otto'nun swing parçalarıyla dans eden İtalyanlar ona ritmin kralı unvanını veriyorlar. Şimdi önce Mr. Paganini, arkasından da La Classe degli Asini Itabella'da. Maestro Paganini, suona ancor per me quel motivo in do che fa sognar. Ripeti ancor, prego, sul tuo violino il ritmo moderno sincopato che incanta, maestro Paganini, suona sol per me, senza il ritmo in do io morirò, ripeti ancora, prego, che tanta gioia in cuore mi sa dare, mi fa sognare, fantasticare. Il tuo dolce suono scende in fondo al cuore e mi fa sognar l'amore. Sogno notte e giorno, ritmi sincopati. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Maestro Paganini, suona ancor per me quel motivo in do che fa sognar. Ripeti ancora, prego, che tanta gioia dà.

grandi al tuo cuore sorriderà. Primavera in fiore.

sassolino piccolino che sei qui. Un sassolino nella scarpa hai, che mi fa tanto male hai. Batto il piede in su, batto in giù, batto il piede, batto il piede, mi fa tanto, tanto male. No Jazz ve ayakkabısındaki çakıl taşını anlattığı oyun Sassolino nella scarpa ile Natalino Otto radyonuzdaydı. Özellikle 1940'lar ve 50'ler boyunca İtalyan müziğine yaptığı katkılarla bilinen, İtalya'ya swing'i getiren, tanıtan, faşizmin tüm yasaklarına inat yaşatan Natalino Otto'nun parçaları vardı bugün Itabella'da. Ritmin kralından ne ritim ama duyuyor musun ne ritim dediği sevilen parçasıyla veda ediyoruz programa. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Natalino Otto'dan Che Ritmo, Senti Che Ritmo ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. Che ritmo, che ritmo, ma senti che ritmo armonioso ti serpeggia dentro il cuore e ti lascia sempre un strano pizzicor. Che ritmo, ma senti che ritmo nelle vene corre, svelto va su e giù, svelto, svelto come un matto Belzebù. Trombe, clarini, violini suona, la la la la la, ed hanno il brivido che fa entusiasma. Che ritmo, ma senti che ritmo nelle vene corre, svelto va su e giù, e non ti lascerà mai più. La li li li li li li li li la la. Senti quanto ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo. Oh, oh, ma senti quanto ritmo. Quanto ritmo, ma senti quanto ritmo.